di scorsi di una capra mentre ti fotte un maiale. Avevi la faccia di una bambola, ora sei una bombola ripiena del tuo male. E no, damigella, damigiana, mangi il mio cervello con le paranoie e dici che sei tu la sana. O il mondo che collassa addosso, ma rido perché ho l'asso nella manica, puttana. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo. Certo il corpo non è un contenitore, è la tua sensazione di vuoto che è fomentata da chi vuole rubare la tua anima. Ma il fatto è che sei vuota tu come la maggior parte dell'umanità. T'hanno reso cieca e sai che sei scontata. E se giustizia c'è, presto sarà fatta. La vittima è il carnefice è la vittima che è stata calpestata. Maledizione in atto, non si scappa. Non dovevi farlo, te ne pentirai. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo. Eppure lo sapevi che non ero adatto al mondo. Tu invece ti conformi a tutto ciò che non sopporto. Col supporto di biforcute male lingue che ti porti attorno, accusi me del tuo sconforto. Oggi c'è una certa ipocrisia che fornisce scuse agli atti impuri, ad ogni porcheria che ti passa giù nel basso ventre e ti fotte il cervello. Prenderne ragione che sei tra le merde. La carne è debole e ancora di più la mente. Nel tuo caso le tue scelte le paga un innocente. Vuoi l'applauso? Fucking bambola, non serve parlare a se stessi, alla gente che non sente. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E questo sì che è per sempre. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo. Spilli nel tuo corpo, bambola voodoo. E sono spilli nel tuo corpo.